Claudio, Claudio. Attenzione canale 10 se c'è qualcuno all'ascolto. Attenzione canale 10 se c'è qualcuno all'ascolto. Sguscio, mi copi, sguscio. Ti ho sentito lontanissimo, Andrea. Sguscio, qua ti copio un pochettino meglio, fai un passaggio un po' più lungo. Proprio in mezzo al tuo RM, sì. Piccolo. Ho provato a spostare ancora un po' l'antenna, ma mi sento lontanissimo. Ciappa, ma stai usando l'aiutino in uscita o normale? Ciappa, aspetta che provo a spostarlo ancora, magari becco la posizione giusta per te un attimo. Ciappa, adesso ti sento molto meglio di prima, può essere anche la frequenza, Andrea, ci sei? Ciappa, ci sono, mi copi? Ti sento lontano, ma ti sento. Ciappa, anch'io ti sento piccolo, ma ti sento. Bravo, che cosa hai fatto? Figurati, tu te l'ho messa a testa in giù adesso l'antenna, figurati un po' questa antenna com'è. Capa, sei proprio piccolo, però per essere così, sai che quando ci attrezziamo con le antenne usciamo che è un bijou. Capa, dai, una di queste sere vieni e ci costruiamo un dipolo e facciamo una prova. Capa, ma adesso tu cosa fai, rimani o stai in ascolto? No, qua mi ci sta anche una V invertita come dipolo. Io invece adesso ho una riunione, ma dopo ripasso nel canale, va bene? Allora, ci sentiamo dopo? Va bene, ok, ci sentiamo più tardi, dai. Ciao. Allora, ma adesso andava proprio benissimo, un passaggio pulitissimo. Cassia, meglio di ieri. Va bene, dai, io vado al lavoro alle 7:30 e rientro verso le 9:30, 10. Magari ci sentiamo più tardi. Ok, rimango in ascolto sul 10. Ciao, allora ci sentiamo più tardi, vabbè, mandami un WhatsApp quando stai per entrare e anche quando stanotte, va bene? Va benissimo, ok. Ciao Andrea, dopo, buon lavoro. E ciao Giuseppe, ciao. Attenzione canale 10 per un controllo se c'è qualcuno all'ascolto, gentilmente. Ciao, chi sei, Giuseppe? Oh, ciao Claudio, Meia, mi copi? Sì, alla grande. Claudio, mi dai un controllo di Santiago e radio? Santiago 7, quasi 8, radio 5. Benissimo. Sì, sono riuscito a mettere la catena come mi hai detto tu ieri, l'accordatore tra antenna e apparato e booster, diciamo. Però aspetta che ho l'antenna a testa in giù, perché mettendo l'antenna a testa in giù sono riuscito a sentire mio fratello. Aspetta che la rimetto dritta, mi dai un altro controllo. Claudio. Sì, chi è? E sono quello del Monte, parte alta. Oh, ciao Marco. Guarda che è arrivata l'antenna, mi stava cercando, l'ha detto, chiamato per andare a prendere. Faccio la macchina, io macchina non ne ho, ce l'hai l'aria, quindi adesso vediamo se riesco tra domani e dopodomani a prendere la macchina. Il V disturbo e quindi non posso trasmettere. Ok, vediamo un po'. Grazie comunque Marco. E come mai non disturbato il primo? L'ho portata la rovera e l'ho messa su quel palo a fianco, è troppo bassa. Troppo bassa evidentemente, prende in pieno l'antenna, non lo so. Voglio l'audio, ho capito, sia a me che a Nino, quindi non voglio rompere le palle. Cavolo, rimetti la rovera. Attenzione che non ci sia il cavo dell'antenna che sia andato. Compra quel cavo satellitare che è molto meglio di quello normale TV. Perché quello normale TV non c'ha nessuna, c'ha poca calda, ma non si intende. Invece quello satellitare c'ha la fogliolina di rame che isola molto, ma molto meglio, non c'è confronto. E io stesso c'avevo quel problema. Ho sostituito il cavo, ho sostituito l'antenna, niente, vado a 100 watt No, il cavo è buono Marco, il pianto l'abbiamo fatto quest'estate, il pianto è nuovo, l'antenna, il cavo, ho messo la TV qua in stanza e il cavo ho utilizzato lo stesso, c'è il centrale bello grosso, calza ce n'è un bel, poi intorno alla calza c'è anche l'alluminio, quindi è un cavo buono, cazzo, 50 metri mi ha fatto spendere un capitale fusato, il cavo è buono, evidentemente c'è qualche, non so, come l'ho spostato adesso, comunque la devo rimettere dov'era, invece la giornata oggi è piovosa, sta facendo tempo brutto, non ho toccato niente. Bene, certo, però perché la limite non vera, che andava bene, ciccia. Vabbè, però non è che posso mettere l'antenna nuova lì, no, quella è piccolina e lì va bene, l'altra, le staffe sono a fianco alla, alla mantova, quindi l'ultima sua è quella, devo capire il perché. Vabbè, vedremo, dai. E poi non sto bene, non sono un po' così, sai, perché moglie è sempre peggiorando, quindi sono un po' anche giù di morale, quindi non ne ho voglia né di fare radio né niente. Adesso mi ho risposto a Giuseppe per correttezza, perché lo conosco, quindi per darle un controllo, ma sono un po' in letargo. Sì, vabbè, dai, riprenditi, ci siamo alle più tardi, io sono qua che sto facendo dei lavori, perché c'è sempre qualcosa da sul banco da riorganizzare per fare la cosa. Va bene, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, tu in morale, forza. Beh, io ti stavo ascoltando poco fa, un Fabrizio. Io sono sempre in ascolto, non c'è problema. Va bene. Giuseppe, voglio un altro controllo, così poi mi ritiro per deliberare. Sì, grazie. Guarda, aspetta un attimino, così come... Lui sei più basso, sei 5. Sono 5. E così? Lui sei quasi 9. Va bene, anche la radio è buona. Ok, ho capito, dai. L'ho rimessa al contrario l'antenna. Sembra che funzioni bene. Sì, sono riuscito ad abbassarmi le stazionarie, comunque dopo... Non ho capito se era il cavo o qualcosina e adesso poi mi metterò a norma. Ciao Marco, se mi ascolti, se mi arrivi, io ti sentivo piccolino, non so se ti avevo. Sì, ti ascolto, ciao. Ma non ho un'antenna per questa frequenza, è accordata, va la bella media, insomma. Segnale qua, è 52 qui da me, ma non te parte alta. OK, è la radio 5. C'è cambiamento anche qui da me del segnale, nell'altra posizione sali quasi a 5 come segnale, da 1 a 2 passi a 5, ciò decisamente meno. Guarda che se domani vogliamo andare, magari ci organizziamo, ti vengo a prendere, andiamo a prenderla e la portiamo via, capito? Ti passo a prendere io. Vediamo Marco, sì, si potrebbe anche fare. Possiamo fare presto, allora del caffè, perché poi è mezzogiorno e mezza, se non piove, chiaramente, sempre se non piove, ma ha dato acqua anche domani, c'è appuntamento dal dentista anche, quindi se non piove posso andare in moto, se piove darò la disdetta, se vediamo domani mattina com'è il tempo, comunque, se tu sei mattinata non molto tardi, magari in movimento, fammi un colpo di telefono. Verso le 10 così scendiamo a prendiamo il caffè e poi ti accompagno lì. Cosa volevo dire? Ma è riattivato l'anno numero, perché ho mandato prima un messaggio proprio perché volevo dare questo QTC ho mandato un messaggio all'altro numero proprio perché avevo già provato a chiamarti ma ieri mi pare ma non funzionava. Dico, è successo anche lì, lascia aperto. Sono andato, ho fatto tutto, il momento in cui ho presentato i documenti sono accorti che la patente è scaduta, quindi non sono potuti andare avanti col sistema, capito? Quindi abbiamo dovuto disdire, riprendere nuovamente l'altro numero, riinserire nuovamente la scheda Vodafone, è un casino, quindi devo aspettare adesso appunto se ce la facciamo, se ce la faccio domani mi prenoto anche la patente perché è scaduta, non ho altri documenti, ho carta d'identità, ne ho mai avuto, quindi faccio anche lì un'altra rottura di balle. Vabbè, quelle non mancano mai. Ma comunque, male che vada, io ti chiamo i 70 centimetri, 70 anche di tutti. Sì, da tutte le parti, sia in V che in U, non capisco cosa. Ma è proprio come ho spostato l'antenna, vabbè. Era già successo un'altra volta, poi avevo trovato la posizione ideale, l'avevo messa lì e non mi trovava più. Poi l'ho tolta da lì e gli ho messo il palo più lungo. L'ho affiancata alla mantova, però disturba, non so cosa c'è, comunque no, non è un problema, lo verifichiamo, lo verifico e poi sicuramente sarà tutto a posto. Va bene Marco, sentiamoci verso quell'ora, verso le 10, e così io mi tengo pronto e scendiamo la volta, ci prendiamo un caffè e poi ci risaliamo, insomma, basta che sia prima di mezzogiorno e mezzo a casa. Sì, 5 stelle, va bene, allora scendiamo qua, dai, scendiamo qui, va benissimo, va bene. Ok, va bene, dai, a dopo, adesso proseguo qua a fare, io ho aperto l'amplificatore di 6 metri e ho visto, insomma, c'è del danno, il circa, di risolvere, vediamo un po' se è un casino, va bene. Ma vedi, riuscirò anche stavolta a venire fuori, dai. Ci sentiamo magari più tardi e poi mi chiamo allora qua. E dai, ciao a Gavino, se non ho capito male il nome, ciao, buona serata. No, Giuseppe, vecchio CB di Chiave Strausi, Auri mi pare, non so. Va bene, dai, rimango in Querix, Giuseppe, se non hai necessità di altro, saluto anche Marco, te rimango in Querix, se mai ci aggiorniamo più tardi, ok? Break. Grazie Claudio, sì, avanti break. Sì, ciao Marco, da Pizzi Claudio. Sì, sto facendo delle prove. Ok, dai, buon Querix Claudio, avanti break. Capa, ciao Giuseppe, ciao Claudio, ciao a tutti i nostri amici, Gianni do più Roma, avanti. Ciao Gianni, ben sentito. Cappa Giuseppe, e allora ti sei messo a posto con le stazionali? Sì, mi sono messo a posto ma non ho ancora trovato la posizione, per esempio prima ce l'avevo messa al contrario, ho sentito con Santiago 9 Claudio, invece adesso mi sta arrivando Santiago 4, quindi adesso mentre fate i passaggi esco in terrazzo, smanetto e poi torno e controllo. Cappa, qua sei Santiago 7 Radio 5, va benissimo. No, ma posso migliorare, adesso esco e me la sistemo di nuovo. Sì Giuseppe, vedi un po', qua c'è 9 Radio 5, però potresti fare qualcosa in più, dai. No, io vi devo lasciare, me posso trattenere perché ce l'ho a fare. Ci sentiamo più tardi se coincide. Comunque c'è il collegamento che ti ho detto, hai fatto così, stai andando benissimo. L'incremento c'è da 5 a 9, quindi no, non ci sono problemi. Ok? Ciao, ci sentiamo. Ciao Claudio. Cosa hai fatto? L'antenna è cambiato, fatto di polo, qualche cosa del genere? Sì, eccomi Gianni, scusa, no, che mentre fate i passaggi io esco fuori e muovo l'antenna e poi vengo a controllare il rosbo tra quanto mi è arrivato. Ah, capo. No, non ho cambiato nulla, è sempre la mini boomerang messa sul terrazzino, soltanto che questa mini boomerang adesso fa schifo, adesso appena un attimo mi ordino la vera o quella che mi hai detto tu, o mi faccio un dipolo o qualcosa, perché proprio, tu figurati che esco meglio se la metto a testa in giù l'antenna, figurati un po'. Qua la Venocchi ce l'ha, è una 5 ottavi come antenna, per intenderci è come la Mantova, 5 ottavi, solo che è un'antenna piccola, sembra un parafulmine, è piccolina e va benissimo. Sì, ieri mi ho letto tutte le caratteristiche, ho visto un po'. Fai una cortesia Gianni, guarda un attimino, adesso la radio, il segnale, guarda adesso se è cambiato qualcosa. Sì, prima era un po' meno di 7, adesso sei 7, però la radio un po' comincia già un po' a essere un po' satura. Cappa, aspetta un attimo, è così come la radio? Già è accettabile, no? Secondo me io dovresti avere dovresti regolare le stazionali, dovresti avere, come si chiama, un accordatore, così almeno riesci a regolarle bene. No, ce l'ho l'accordatore, le ho regolate, ce li ho 1 e 2 adesso le stazionali, va benissimo. Ah, ok, va bene, allora. Però ricordati che te le regola solo al baracchino, all'entrata, e in antenna ce l'hai sempre. Certo, capo. Sì, vabbè dai, adesso, ma giusto per riniziare, poi già un'antenna come si deve me la metto e poi adesso ho la fortuna di vivere in casa indipendente, quindi mi posso mettere anche un palo sul tetto e fare quello che voglio. Quindi già me la sistemo un'antenna, non mi interessa averci chissà quale potenza, però un'antenna per uscire bene, per ricevere bene, già me la piace. E allora se ti vuoi fare un lavoro fatto bene ti metti un'antenna, una 5 ottavi, tipo la Mantova, così. Io per dire, ho comprato la Superlem, è molto bella, c'è anche l'entrata del tubo in acciaio, fatta bene. No, si è uscito un bel mare, non si capisce quello che hai detto. Ti ha mangiato la radio completamente. Forse non ho schiacciato bene il mic. Ho detto che mi metterò un palo laterale con un antennino decente, ma non un'antenna gigante, dai. Vabbè, se non vuoi fare un scandalo, tu vuoi comprare un'antenna che proporzione qualità-prezzo è ottima. Cappa. Vabbè, adesso ci organizzeremo. È già tanto che sto uscendo dopo 20 anni senza aver toccato nulla, figurati. È l'alimentatore che l'alimentatore le stai usando? È un 8 ampercio della GBC. Quindi VIX. Ho capito, quindi senza strumenti. Sì, spartano proprio al massimo. Poi l'alimentatore che stavo dicendo al tuo fratello. Ci sono quelli che si mettono nei computer che vanno abbastanza bene, anche la ventola, tutto quanto, devi solo praticamente trovare i fili giusti. Io ne ho fatto anche l'interrutturino, sono un po' fisi. Quei gruppi di continuità che fanno mancare l'elettrico, quelli stai dicendo? Gianni. Scusa un attimo, che siamo 15 verticali. Ecco, sguscio, mi copi? Ciao Andrea, ti sento lontano ma ti sento. Adesso ti sento un po' meglio rispetto a prima, Ciao Andrea. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, vediamo un po' se vi ho riconosciuto. Allora, i nomi ancora sono un po' così, però sicuramente. Sei uno dei primi che ha parlato con me, Gianni Doppio Russo, ma va. Piacere Gianni, forse il primo con cui ho parlato. Forse sì, non lo so. Non so se ce ne sono stati altri, però uno dei primi sono stato io. Cappa, no, stavi ridando adesso a Giuseppe Dattisi, i stessi consigli che ha dato a me sugli alimentatori. Stavo dicendo praticamente che i cinesi vedono quegli alimentatori per computer, ce li hai presenti? Certo che ce li ho presenti. Sguscio, ce li hai presenti? Praticamente tipo ATX, però, che servono per stampanti 3D, per cose di questo tipo. No, abbigliando Vugudu, prova a chiamarlo. Non ho capito gli ultimi passaggi. Ho detto, prova a chiamarlo, mi sa che ha preso fuoco tutto. Non sta uscendo. Lui è un po' provvisorio, vabbè, anch'io sono provvisorio, ma lui non ha antenna secondo me ancora. Lui ha l'antenna. L'antenna capottata, cioè. Già ci sono, stavo spostando l'antenna. Vabbè, adesso ci è uscito bene. Ti ho copiato anch'io, sguscio. Sì, Andrea, ti sento lontanissimo in mezzo al QRM, capisco a malapena, ma mi arrivi, diciamo così. Come lo chiami, Andrea? Guscio? Il suo nome è Sguscio con la S, Sguscio. Sguscio. Questo è un nickname di 30 anni fa, Nominativo si chiama qua, nickname al computer. Nominativo. Vabbè, comunque, piano piano, dai, vedete un po' voi. Su Amazon guardate se c'è con l'antenna, magari la pagate di meno. Vi conviene fare un ordine e ordinarne due direttamente e farlo arrivare a una persona, uno di voi, e poi ve li dividete. Facciamo una matassa di cavo coassiale da qua a Tissi. Quanti chilometri saranno? 5 linea d'aria, occhio. Sì, grazie a loro. Sì, io penso di prendere una boomerang. Vedi, la boomerang è un'antenna direzionale. In quella direzione di momenti va bene, ma nelle altre parti no. Mentre invece quella lì, una 5 ottavi, le spara a tutte le parti. Cappa. La differenza è quella, capito? La differenza è quella lì. Invece che lineare mi consigli, Gianni? Cosa? Che lineare mi consigli, un valvolare e un transistorizzato? No, io sono più per i transistorizzati, perché quelli valvolari devi stare sempre cambiando le valvole, quelli transistorizzati vanno bene una vita, se li tratti bene vanno avanti a lungo. di valvolare, ci consumano le valvole, di stare a cercare, qua non ne ha nessuno, devi ordinare da internet, insomma, sempre che ne trovi, secondo che ne dia le briti. Guarda, il 747 da 100 watt ed è un bellissimo lineare, non ti fa distorcere la radio, è proprio perfetto. Cappa, anche io mi stavo orientando su quello, ne ho trovato diversi, ma li vendono anche a prima mano? A seconda mano qualcuno ce li ha, bisogna vedere se li tu. Comunque, se poi vuoi qualche cosa di più potente, un RB Italy. Cappa, ascolta, come alimentazione per un 747 che cosa prevedi? Vabbè, io lo alimentavo con 50 ampere, però non lo so esattamente quanto assorbe, non lo so, bisogna controllare, ma bene o male assorbirà sugli 8 ampere, 10 ampere, dipende. Quindi mi conviene un alimentatore da 10 ampere. Sguscio me ne ha prestato uno da 4 a massimo 7, ma non va con lineare. Io lineare con il mio amplificatore, cioè il mio alimentatore, che è 6-8 ampere, uguale a quello che ti ho dato domenica. Ho copiato Sguscio. Gianni, fammi da ponte per favore, che non mi sento. Ha detto che praticamente ha un lineare da 6-8 ampere, che assorbe 6-8 ampere. Quello che ti ha dato domenica, non so, non ho capito bene manco io, ho detto, ripeti, che non ho capito bene. Mi stavo dicendo che io ho il 737 di lineare e lo sto alimentando con l'alimentatore da 6-8 ampere, che è come quello che gli ho dato domenica a lui di alimentatore. Hai capito? Il 737 lo sta alimentando con l'alimentatore uguale a quello che ha dato a te. E allora va bene questo che sto usando adesso, che ha dei picchi da 7 ampere, quindi già va bene. Sì, però se tu attacchi il baracchino lì non puoi attaccare il lineare, capito? Non puoi attaccare tutti e due. Io ce li ho tutti e due attaccati. Sì, ma se tu li usi tutti e due insieme, l'assorbimento è superiore. Bianco, sono in bassa, un attimo. Gianni, io li sto usando dallo stesso alimentatore in questo momento. Non lo so. Magari bastano gli ampere, non lo so, non te lo so dire, perché non ho mai preso la briga di controllare quanto assorbivo. A parte non ce l'ho più, però l'ho venduto. Però diciamo che io c'avevo un alimentatore da 50 ampere, quindi a buglia. Capo, anch'io quando avevo il Kenwood di 140 c'avevo quello da 30 ampere, il suo, quello grigio, ma figato. Il 140 non lo dovevi dare perché è un treno quella radio. Vabbè, se cerchi ne trovi, quanti ne vuoi adesso? Bisogna vedere che condizioni li trovi. Vabbè, no, qualcuno già lo trovi, poi c'è ancora l'assistenza, comunque te la fanno. Comunque il prezzo è 350 euro, mi fa. Sì, il prezzo adesso è quello, cioè quanto costavano prima, è inarrivabile era. Lo so, prima costavano un bel, anche perché sono di marca Kenwood, di 15. Già la marca te la fanno pagare. Cappa. Va bene ragazzi, io vi devo salutare perché ho i bambini e tra un po' mi devo organizzare per merende e merendine varie. Ci sentiamo più tardi magari, dai. Vi saluto e buona serata Gianni, grazie per i controlli. Ci sentiamo più tardi. Allora fammi sapere se trovi qualcosa di più importante. Avanti, come ti chiami? Ma Pietro, Giuseppe, no, Andrea. Andrea! Mi sa che è andato in bianco, un attimo già. Vabbè, ciao, ci sentiamo. A dopo, ciao. Che è avanti su 10. avanti. Chi è? Roberto da questa parte, chi è? Ciao Roberto, Gianni sono. Ah, no, ciao già, no, c'avevamo un'altra persona. Ho detto, Scagliola non ce n'è perché si è sentito fischiare. Scagliola, così ha detto. Scagliola! Ah, perché la scagliola, quando fischi c'è la scagliola, per gli uccellini. E allora? Scappa, non c'è nessuno? No. Sta andando tutto bene, io sto uscendo pulito, perché io sono sempre con la 60 e quella che sembrava avesse problemi, buh, si è ripresa, non ho toccato niente io, ma meno male non l'ho scesa. No, stai uscendo sempre bene, no. Tu c'hai appena appena un po' di alternata sotto. Ma il microfono, lo so. Quando parlo non si sente però. Che microfono perché? Turner Super Sidekick. E beh, cosa c'entra il microfono con l'alternata? È il microfono dell'alternata, c'entra, perché cambiando il microfono non si sente. Ma hai controllato la calza, che non ci sia qualche peluzzino che magari tocca qualcosa che non è schermato bene? No, non l'ho controllato sinceramente, però non lo facevo già da un po', e quindi lo so che c'è questa alternata qua, ma mi hanno detto che quando parlo non si sente nulla. Già si sente poco, vabbè, non è fastidioso, però un po' si sente, non è niente di importante, però se c'è modo di eliminarla, rimane, provate a metterci la mano sopra, cos'è, che radio è questa? Che radio è? Adesso non c'è più l'alternata, vero? No, ho detto, che radio è? Il Galaxy. Ma ci ha messo la mano sopra? No, l'ho preso in mano il microfono. Allora vedi che pare una massa, ma non riesci a fargli una massa aggiuntiva, hai provato a fargli la carcassa del microfono, solo a fare una prova, dal microfono, dalla carcassa, a toccare un punto di massa della scatola, diciamo, del contenitore dove c'è l'apparecchio. No, non l'ho provato, già lo so, l'ho già fatto anche col 140, che faceva lo stesso lavoro. Ok. No, non l'ho provato, Robert, basta che cambi il microfono, non ha più problema, quindi ogni tanto metto questo. Se lo tengo in mano non fa nulla, non è fatto. Se invece lo appoggio ti fa quel lavoro lì. E magari sei troppo vicino al coso e ti fa il rientro di RF, è per quello che ti sta prendendo il microfono anche di subito. Adesso va benissimo, pulita. Lo so che è così, che è pulita. Però se io la devo mettere a fianco al coso, l'apparecchio, la devo prendere in mano praticamente per non farlo. Magari provo a fare, a trovare qualche soluzione, pari a spostarle il cavo dall'altra parte e fargli fare un altro giro, perché molte volte basta una fesseria e vedi che il problema si risolve. Sì, già lo so, basta che metti una massa dal microfono, ti fa passare dentro il cavo spiralato e lo attacchi al jack del microfono e non lo fa più. Guarda, quando c'avevo la stazione radio, che in FM i disturbi non è come qua in AM, basta, a parte vabbè, la fedeltà è tutta un'altra cosa, la risposta in frequenza è hi-fi nella radio parliamo con le 8808, ci faceva uscire un disturbo, sentevamo questo fischio e non si capiva cosa cavolo, abbiamo provato tutto, sigillando mixer, allontanando, perché di lì la radiofrequenza entra di brutto. Nel senso, se non è tutto schermato entra tutto dal mixer, poi va a finire nell'antenna eccetera, e cacca, alla fine lo sai cos'era? La ventola, c'era un gommino, siccome ci sono le ventole del raffreddamento nel finale, c'era un gommino che faceva contatto anziché essere isolato, la ventola dovrebbe essere completamente isolata dal contenitore, non è come la M, non ti ha fottuto, la puoi mettere sopra, non succede niente, siccome la ventola di lì è continua, funziona ininterrottamente, sono diciamo transito diversi, sono un po' più tirati, come si chiama, e c'era questo gommino, ci vanno dei distanziali isolanti dove fissi le vitine della vite e del coso della ventola, e alla fine era quella lì, abbiamo messo quello e risultato il problema. Ma sentivi questo fischiettino soprattutto in stereofonia, te ne accorgevi che in stereo ti senti tutti i disturbi. Ulala ISS0, ulala Camagappa, avanti Tattalino. Buonasera a todos. Tattalino, avanti Roma. Che hai detto di ISS0 ulala? Ah boh. Ci deve essere qualche ISS0 qua, boh. Tattalino, ti sento male, come mai ti sento così disturbato? Male mi senti? Perché c'è il televisore attaccato. C'è il televisore, aspetta, abbasso qua. L'unica ad avere. Bene, va. A che cosa diciamo? ISS0 ulala, Roma. Ho sentito USZ-Rulala, te gare chi tu USZ-Rulala? Io ero, dai. Ma allora, lì, ti sento, sì, ti capisco che sei tu, però la voce, la modulazione non è chiara. Sembra che stai parlando col microfono attaccato alla bocca. Aspetta, forse c'è, il televisore è troppo alto. Ma forse sei tu troppo alto, no, il televisore quasi non si sente. Sembra che stai parlando col microfono attaccato alla bocca, non è chiara la modulazione. Ma si abbassare un pochino, Natali, come si apre per il microfono? Ma che microfono sta utilizzando? Oh, me ne va adesso. E adesso un po' meglio, adesso sei tu. Ma poco fa sembrava che tutto bu bu bu bu bu bu bu. Perché c'era, come si dice, sta la televisione accesa. No, ma non è la televisione quasi non si sentiva, sentivo in sottofondo, la voce tua era quasi irriconoscibile, cioè ti ho capito che eri tu, però non è la solita tua radio. Oh, cosa ne so, guarda, così era poco fa. Abbassa un po', sei troppo alto. Visto, te l'ho detto. Così bene va. Così va bene, almeno sei chiaro, nitido e recoaro. Ok, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Sul 10, se no riprende Gianni. Avanti, sul 10 vuole entrare. Si sta spopolando questo canale. Se sta staccando la... Tu vai là, gli altri vanno là, è normale che poi la gente... Ma comunque stanno entrando persone nuove. E chi è entrato di nuovo? Ne sono entrati due, uno da Via Vendola e uno da Artisti. Che dico, Gianfranco La Scimmia, buonasera. Ciao Gianfranco La Scimmia, ben sentito. È Bettino, è Bettino. Buonasera, ciao, provando un apparato nuovo, dai. Ciao Tino, ben sentito, compagnia mia di Gianni e di Natalino Alfa 1 che te lo rilancio, vai Natalino. Ciao Tino, e che apparato è? Ma a me forse tu hai conosciuto il padrone di questa radio, è un Intec 34 canali di quelli vecchi, piccolino, ti ricordi a Varta? Ma ne metti che ce l'ho uguale l'apparecchio, c'è un Intec di quelli 34 canali piccolini che c'ha praticamente il microfono con tanti puntini, la presa del microfonica, che è tipo stereo. Eia, è vero, ma l'ha dato, lo stava, cioè ce l'aveva lì buttato in azienda, e allora gli ho chiesto se, ma te lo regalo, me l'ha dato. È bello, ce l'ho anch'io, quello lì me lo piazzo in macchina. Intec 34S, o sbaglio? No, aspetta, come ti si chiama? BM, no, FM, zitto un attimo, che non lo leggo, che è qui su, aspetta un attimo, ti lo dico subito, 680, FM 680, quello lì è T. No, questo è un M340S. Ma lo vedi che dovrà. No, questo qui è FM, c'è scritto Intec, FM 680, però è 34 canali, di quelli piccolini, sarà uguale, da. Il 34S con il microfono della, come si chiama, della Intec, usciva un bel forte con il microfono amplificato. No, io ho il microfono originale suo. Anche io, dai, ma giusto una radio così, giusto, è un pacchetto di sigarette, cosa volete? L'importante è che esca bene il radio, dai. Già esce abbastanza forte. Tu devi mettertene in macchina, non ti dà fastidio. No, in macchina non ho l'altro, quello, il Midland Alan 48. Ah, che ho messo le luci blu. Ehi, ma ne ha fatto la mascherina. Vabbè ragazzi, era per provare la radio. Vi davo mio mollo che sto cercando di fare una... Mi sto preparando il pollo allo spiedo, quindi devo infilzarlo. Vai, infilzalo. Poi che non farmi male. Ma sento, quando schiacciava Tino una specie di musichetta sotto, tipo un battimento. Io? Guarda un po'. No, non c'ha nulla Tino, è limpido. Prova a non parlare Tino. Non lo sentite? Uiu. Sì, adesso lo sentite anche. Adesso non lo sento più Tino, si è schiacciato portato, adesso era qui, dopo poco fa si sentiva. Ho capito. Vabbè ragazzi, sentiamo più tardi se coincide. Ciao, divertitevela. Ciao Tino, ben sentito. Vai Natalia. Ciao Tino, ben sentito, dai. Il mio c'ha il potenziometro del volume che va a scatti. Quello lì me lo devo mettere a posto adesso e poi me lo metto in macchina. Sì, Natalia, gli ho dato la pasta del CRC, non voleva visto com'era. Anche se il CRC non si mette, si mette il pulitore. E il WD-40 non va bene. Quello ho messo, quello. Scusate un attimo, devo spostare, scusa. Sì Natalia, ho messo quello di WD-40, poi l'ho soffiato bene con il compressore, però per farlo asciugare, perché sennò rimane troppo oleoso. Ho aspettato un po' per accenderlo. E poi mi ha dato anche un alimentatore con il polso regolabile. Ah, K. E vabbè, adesso lo apro e guardo dalla mascherina, bisogna togliere la mascherina per vedere il potenziometro, così è. No, io non gliel'ho tolto, ho tolto solo i coperchi, quello di sopra e quello di sotto, gliel'ho sfruttato al contrario, diciamo, l'ho messo a testa in giù, in maniera tale che entrava un po' il CRC. E ha funzionato, perché non si vedeva, lo squelch non funzionava, il volume si alzava a manetta e insomma voleva lubrificato un pochino. Comunque è andata a buon fine, dai. E vediamo un po', da provo a farglielo pure io la situazione, così, e vediamo se funziona. Va bene, vi lascio, dai, ciao ciao. Ciao Tino, alle prossime, dai. Ci sentiamo, dai, buona serata. Natali, questo qua come esce il microfono? Bene, chiaro, di lusso, recoaro. Cavagara. Meglio del Turner che c'avevo prima. Ma boh, non ci ho fatto caso come stava uscendo il Turner. Comunque sta uscendo bene questo. Questo è l'Ecol Master Plus col Galaxy Saturn Echo. Allora mi pone di rasta che la Carugussi non lo duca più. Cavagara. La radio come la mia già, meglio è adesso? Sì, sì, adesso va bene. E forse c'avevo il microfono troppo vicino. Ero troppo alto forse, perché si sentiva un po' di rumori sottofondo. C'è Roberto Quadrato, avanti Roberto. No, Roberto se n'è andato in 2 metri. E non ha detto niente. Come? Non ha detto che faceva quelli. E se n'è andato in 2 metri, stava chiamando in 2 metri. Senza avvisarsi di andare. Ehi, ui. Il successo gli dà la testa a tutti quanti. Fate bravi ragazzi. Mia Cristian, lui è sempre assiduo. Cava, cava, ciao Cristian, buonasera. Buonasera Natalina, buonasera Gianni. E allora, finito anche. Oggi sì, adesso a domani, anzi e poi tu pure è tardi se fa quello. Come mi senti di radio, Cristian? Mi sento pulito, radio pulitissimo, radio 5 pulito. Cappa, anda bene Meda. Lasciala così, non la toccare che è perfetta. E infatti poco fa mi stava facendo preoccupare Roberto, ma di tu che riscendi mari. E ti sento bene, poi non lo so, ma... senta, stavo uscendo la tornata anche Tino invece usciva benissimo, il Tino era perfetto. Ma che vuoi che te dica? Mamma se ne senti, bubu, andiamo bene. Ti prendi te la Giovanni? E dove te la... Lascio che il microfono bene, per favore. Che sono nato? Io mi zona, adesso sono zona Lima Delta e poi vado scendo a casa. E su di giù. Faccio una bella doccetta e mi diverto con il computer e niente. Cavagava. No, io il computer non esordo di trucchetti, ma da quando c'ho il telefonino, tutto il telefonino fa. Ma quello pure io, ma subito lo stesso vado a miei film, a casa, in telefonia. Ah, una film e tutto non ho più pazienza, guarda, mi trovo. Ma guarda, ogni tanto me lo guardo un film mio, di quelli vecchio stile, di quelli anni 80, anni 70. Io li ho visto il film, c'avevo la polaroid al club del video, c'è tutta la serie di Dario Argento, tutte in cassette, però peccato che, vabbè, dovrei trasferirli, c'è quello del corso che praticamente ti fa, ti si trasla la cassetta a DVD, ma 10 euro a film. E fatti masterizzare su CD, non ce l'ha, non ce l'hai il masterizzare, come fa DVD, versione CD, non ce l'hai? No. E solo ci vorrebbe per passare la mia cassetta a DVD. Io avevo il lettore DVD e in più leggeva le cassette, solo che col nuovo decoder non si può più attaccare, si raggiungerà un pacco. Un amico ha quello che registra il DVD pure direttamente. Quello servirebbe a te, perché guardati, le cassette a DVD. Sarebbe bello. Però si trova ancora, un po' c'è ancora questo Zurico. Perché io ho tutti i film di Dario Argento, da Profondo Rosso sino alla Sindrome di Stendhal, ce li ho tutti quanti. Tutti i film bellissimo, Natalino, ripeti il microfono. E io avevo quella passione, volevo ammazzare una persona. Grazie a te, io voglio ammazzare una persona, non voglio ammazzare una cinquantina, forse lo uccidere io. No, scherzo, ma mi tenevano in tensione, mi piacevano per questo. Ma io, che a me facevo, perché erano film belli di vecchia generazione. Cioè, per te scherzi, io voglio ammazzare 50 persone, tutti i parenti miei però. L'altro giorno c'era un film della figlia di Dario Argento, su cielo, ti puoi immaginare cosa ti va a dire. No, però lui ha detto in un'intervista che lui faceva i film, ma poi dei suoi film anche. Dario Argento? Esatto, oltre che li fa pure poi dei suoi film, figurati. Vabbè, ha paura perché magari si potrebbero ritorcere su di lui quello che fa. Molto probabile, dai. Dà lo spunto all'assassino. Oh, non sarebbe una bella idea, Ci vuole pensare per il futuro. Ma adesso fare certe cose non conviene più. Tu vedi le telecamere, ti sgamano subito. Io non so se, vabbè, tu forse no, perché stai lavorando. Ma la mattina verso le 8:30 ci sono, c'è prima sul canale 9, c'è Alto Tradimento, una cosa del genere. E poi c'è Scene di un crimine, roba del genere, ti fanno vedere tutto come beccano la persona che uccide, eccetera eccetera. Oggi c'era, per dire, uno che ha violentato una donna in un garage di un supermercato e poi l'ha caricata nel cofano della macchina sua e l'ha portata in un magazzino, se l'ha violentata e poi gli ha dato fuoco. Stupendo, non è male come passione. Praticamente l'hanno sgamato dalle telecamere, hanno guardato quello del supermercato, quello dove si è fermato a mettere benzina al rifornitore, eccetera eccetera, e piano piano hanno fatto il puzzle, l'hanno beccato chi è. Tutti sorvegliati a vita, prima dal telefono che è collegato a internet, c'è il localizzatore satellitare, si servono subito, prima da quello. E a me hanno in bocco qui da seguire. Io vado, faccio la spesa, mi ritorno a casa, cosa faccio? Sto vicino a casa, non sto più andando manco in centro. Ma nel senso, fatemi, c'è il telefono, con localizzatore, ti trovo a centimetri, ti trovano, cazzo, cosa vuoi fare alla vita? Cioè, non vai più indietro ormai. Adesso c'è anche Google Maps che praticamente ti fa vedere anche le macchine parcheggiate, le cortile, tutto là. Di casa tua, tutto, vedi tutto quanto quello che c'è. E vabbè, all'interno non c'entra, No, all'esterno però sa che la macchina era lì, a tal ora, a tal giorno. Sì, quello ho visto anche la macchina di quella dell'agenzia Fure, per tutto là. Poi casa mia l'avrei visto anche. Ah? Poi casa mia l'avrei visto anche. No, casa tua, via Amore, se non c'è. Leggete più in giù di via Amore. Ma perché tu non abiti in campagna? Vicino alla fungaia. Che ragazzi. Se avessi avuto funghi, non puoi mai fare chi la strada. Faccio centimetro zero, dalla rete a rete. Andavo. Cavagà, ma la ci sì. Sì che ci sono. Volevo fare delle prove già, se puoi andare in banda laterale al limite, facciamo delle prove sia in banda laterale che in FM. Al limite ci spostiamo su un altro canale. Aspetta allora che mi prendo un piano. Cristian, sto andando là in banda laterale, vai sul 15 vado a laterale. E dimmi la frequenza però. Capito, ma 27 e 135. Ok, adesso vado lì in USB, da. Natale. Ola. Natale, vista, ci sei. Gianni. Via. Meno male sei qua, là. E io ho provato anche sul 15. Adesso ti sei abbassato di radio, boh. Prova a vedere. 1, 2, 3, 4, 5. E vabbè, se c'è qualche altro mi dà un segnale, perché non lo so se riprenderà a te. Ma a me mi arrivavi 9,60. Non riuscivo a attenuarti in FM. Troppo forte arrivavi. Ma adesso sono abbasso di radio o che cosa? No, adesso vai bene. È strano, Natale. Se mi ascolti qua mi dovresti ascoltare anche in FM. Guarda, la radio bassissima, non so cosa vuol dire bassissima, sicuramente andavo in saturazione lo stadio finale perché è troppo forte arrivarvi. Sì, c'erano troppi watt. No, c'è il watt dell'apparato, basta. E i 960 arrivavi. Lo so, quest'antenna è buona. Non è per l'antenna, no, in FM è una cosa spropositata. A me bene mi ascoltavi di radio in FM. Sì, che ti ascoltavo. E io ero basso di watt, capito? Proprio per non essere. Non è alto, anche in balla laterale, che cosa l'altro a fare? Se non tiro di schioppo. Cristian, sì. Cristian. Cristian si è inabissato. Cristian! Ti sei del basso di radio già, come vai? Basso di radio. Ti sei del basso di radio, non so perché. Avevo toccato il macchinese, si accorge, ma adesso bene va. Adesso va bene. Cappa, e allora aveva ragione Natalino, mi sentivo a basso, perché c'è quel macchinese girato, non ho capito come ho fatto a girare. Adesso già è la radio tua già. Se non ti ascoltavo di radio in FM. Beh, la vecchiaia che lo fa ogni tanto. Sì, zia che ci vuoi ciuminarsi mi sono di nati. Chi su di zia mamma? Io non ho mica che hai detto qua. Dall'altro sì, qui non ce l'ho. No, non è la vecchiaia, assicurate l'ho urtato. No, molto sensibile, il tarantino come la mossa, si è mosso, abbiamo sentito la radio. Oia. Ah, sai che è molto Vincenzo, già lo conoscevi sicuramente, Natale, Vincenzo Barri di Buco. Ma quello che era acceso. Ehi, autista. Che si viaggiava di poco, ogni tanto mi sparava un po'. Comunque, già ti ascolto anche a me, friend. Con che radio eri? A me stai dicendo già. E allora, a te. Non lo sai, mi hanno chiamato dal cardiologo, mi hanno chiamato per vedere se andavo. Oh. E per dargli la conferma, domani alle 10:20, ma deve essere all'ora e mezza. E vai, a chi ci sono bravi, Rubino di professor Ibba, Marongio chi studia in classe con me, Gruviglio, deve essere un rubradito, come vai dottor Marongio, rubadrono che mosso, poi c'è il dottor Giraudi, sicuramente te la farà lui la visita cardiologica. Sì, basta che me la facciano bene, a me è uno o l'altro, non mi interessa. Interessante che me la facciano, poi devo andare al centro diabetico perché non rispondono mai, devo prendere l'appuntamento. Una volta che ho fatto tutti gli esami posso prendere l'appuntamento, prima no? Io ho capito, ma cosa vuoi che ti dica? Tu all'inverso è in Chivi, a Giovattù e io, mi fa l'impegnativa lei quando fa la visita e io vado a colpo sicuro senza bigliare né appuntamento né niente, io devo andare a Dì a Tarura, fatto. Vabbè, certo che è così. E così, sassuglia di bigliare appuntamento, quando so Eddie che ti rode l'unità, quando ti fai la visita, ti devi dare l'appuntamento e così tu sai quando devi andare e tu fai gli esami che devi fare e glieli porti quando devi andare. A me mi tocca a maggio, fatti il conto, è già prenotato. ma il problema in realtà lì è che poi se ci sono posti al cupo, se no ti tocca pagarli, se ti danno l'appuntamento ufficio non ti puoi destreggiare, ti tocca pagarli poi perché dal cupo magari non c'è posto e devi aspettare eccetera eccetera, lo sai come te. Già ne ho pagato due di esami, uno per l'errore della dottoressa che dovevano fare una lastra al femore e non ha messo il motivo e quindi mi ha detto che dovevo pagare perché se no loro non glielo pagava la SL. In che bisogna runi? Io ho pagato quelli della vista per esempio, ho pagato perché dice che non c'erano date e allora se viene a pagamento, vabbè vengo a pagamento, quant'è che devo pagare? Tot, fatto, e ha già fatto un buruchisso, ha fatto il bolso tutto alla dottoressa, andando a maggio faccio solo gli esami delle urine e devo fare del sangue, boh. Non devo fare altro. E anche io adesso domani faccio quello, poi devo fare quelli, ma quello le faccio 15 giorni prima, una settimana prima di andare. E anche io l'ho fatto a pagamento quello degli occhi, mi ha fatto pagare 50 euro, dottor Rubina. A me un'altra, Dona Era, me l'ha fatto. Sì, grazie che bisogna attendi. Ma il signore mi pare che c'è guento di chi mi si integgia, ma i bicicletti che sono fuori da culo, si la bacia, poi per andare a cosa si abbasciano i bicicletti. Ma cosa vuoi che ti dia? Ah, mi sa che ci stanno marciando quelli del policlinico. Beh, se devono rifare il tempo che hanno perso, no? Che stava per chiudere e poi devono rifare. Comunque sono bravi, io tutte e due le operazioni me le ho fatte al policlinico e ti posso dire che sono di lusso a vero. Cavità polmonare. Proprio bene. Ma quale operazione hai fatto? Dove l'hai fatta? Una l'hai fatta all'ospedale civile perché ti ho portato io. No, cosa stai dicendo che non è fatto all'ospedale civile? All'ospedale civile sono stato ricoverato per la pancreatite, lì mi hanno fatto l'attacco, la risonanza, però l'operazione l'ha già fatta tutte e due al policlinico io, quella della colicisti e l'ernia, tutte e due me le ho fatte al policlinico io. Ah, le altre stai dicendo? È perché con lui mi ricordo che sono venuto io a prenderti all'ospedale l'ultima operazione, vabbè, che prima di questi due è fatto. No, vabbè, ho capito. Sì, sì, anch'io l'ho fatta, quella dell'occhio l'ho fatta al policlinico, me l'aveva fatta il dottore che poi mi ha arrestato. Che era andata anche a striscia la notizia, Giovanni, non mi ricordo come si chiamava. Vabbè, comunque l'hanno, me l'ha fatta lui. E ho capito, quell'ortopedico che c'era al policlinico, perché l'hanno arrestato già? No, l'oculista, perché faceva risultare che aveva operato, invece non aveva operato, e gli faceva risultare come operazione, lo pagavano, mi pare, non tanta operazione, 1000 euro operazione, non lo so. Un truffatore, quello. Che ha pagato? Beluso. Comunque al policlinico mi sono marcendo i voti, cura affari di andare a pagamento, quella cosa che è clinica privata. Ma infatti. Praticamente, vabbè, quello che mi ha fatto pagare perché dice che non c'era scritto la motivazione della lastra è stato quello di via Roma che mi ha fatto pagare. E tutti ci marciano adesso. Sì, ma se la dottoressa poi mi dice, scrive lastra anche a sinistra, anche a destra, eccetera, eccetera, che motivazione deve mettere? Non ho capito. A me lo dì. Un'accusa è Anigavaddu. E allora mi volevo far pagare 30 euro, detto io non sto lavorando. E allora mi ha fatto pagare 18, mi pare. E perché quelli della Teoce quando faccio gli esami mi vieni a pagare un prelievo? Ma dimmi tu, aiuto! No, ma tu non le devi pagare il prelievo, io le ho già fatto i carabinieri, tu non le devi pagare perché hai l'esenzione. Già lo so, e perché dovevo pagare la volta che ne pigliavano solo 5 e gli altri dovevano pagare tutti, esenti o no? Quella è una legge interna che ci hanno fatto loro, ma non lo possono fare. Già lo so, purtroppo però, e cosa vuoi fare, quando un'impresa paga e mudo. Quelli che se ne vogliono loro per approfittarmi, Cristian, riprendi. Stavo ascoltando così, perché sono... faccio con parlare di questi medici e potete cagare. Ho un attimo e vado in bagno. Vado, andate lì. Ciao Cristian, buonasera. Buonasera anche a lei. Poveri, piove. Piove, è tanto pure. Si copre Gianni e Natalino. Ciao Gianni, ciao Natalino. Ciao Fra. Splendido. Ti stiamo aspettando stasera come un pirla. Potevi telefonarmi, non potevi venire. La verità si dica, mi sono coricato e mi sono alzato poco fa. A che non ero stanco morto. C'erano i piedi congelati. Ero col freddo, aiuto, me ne sto a letto perché se esco mi fa piccio. E allora il ratto è? No, deve essere c'è qualche... un po' di febbre, capito? Ho preso freddo in campagna, che? Ma tu dovevi andare alla Clucca che ti dava la supposta all'asino. Lo so, ma ci sono andato io, capito? Io faccio sempre così, vado alla Clucca lì. Veramente prendi? No, la supposta di mio duro ti dà. A me mi sa che tu ti prendi veramente. Guarda, io supposta non le prendo, vedo. E fai bene, Cristian, le supposte bisogna darle, non prenderle. Ti stavo dicendo, Natalia, beh, stazionaria ne hai adesso. Cosa, Fra? Ho detto, stazionaria ne hai. Stazionarie? No. Cava, già va bene. No, perché se c'è stazionale, Natalia, stanno prendendo lo spray alla GBC. No, io ho la polverina. Se la metti che la domanda va bene a ieri. A piglia lo spray antistazionale. Andiamo, vai, andiamo. Cata. Oh, yeah, io ieri sera... Non basso, Natalia, non basso. Si è gonfiato, sono la massima, mamma. Ho preso attacchi che mi stesse venendo una parisi facciale dal freddo e ho messo fatto l'impacchi con la camomilla e l'acqua tiepida. Esagerato, già. Esagerato, ma veloce chi me ne esce di V. Ciao Nannini! Magari già ti abbiamo andato da Chicco a un bel di anni fa, noi eravamo ragazzi ancora. Le ha detto Gabi, vai da Gio Capita e compareggi a mezzo chilo di burro piccato. Se non è piccato, te lo vai a piccare. Lo burro è franco un po', no? Ehi, ti racconto già la sussa di roccio. Non è il burro. Mamma, un franco di burro piccato, se non è piccato, lo fa piccare. Vai, un cretti a Borgia, va. Ciao Nannini, cazzo, lascio un poco di spazio libero per me, appa. Ciao Lucchetta. Ciao Cristiana, evangelista. Lucchetta, ma te lo immagini a questo Lucrezia Burgia?